could take the afternoon, but nighttime comes around too soon. You can know what you mean to me. Your poison letter, your telegram, just goes to show you don't give a damn. Since you've been gone, since you've been gone, I'm out of my head, can't take it. Could I be wrong? But since you've been gone, you cast a spell, start breaking. Whoa, whoa, whoa, since you've been gone. È venerdì, passerottini e passerottine care, ce l'abbiamo fatta raggiungere anche questa volta il tanto agognato weekend. Confesso che questa volta ho dubitato che ce l'avrei fatta. Fortuna che ci siete voi a darmi un grande aiuto. Per voi e solo per voi, Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you tear down and say it. Some certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Said I'm gonna try it with them too. Joe Cocker, l'uomo che riusciva ad imitare perfettamente John Belushi che imitava Joe Cocker. Cosa ho detto? Non lo so. So che però ho una bella storia da raccontare. Di quella volta che Pete Townshend degli Who disse tutto quello che pensava di Jimi Hendrix. Ma lo farò solo dopo i Cult. She Sells Sanctuary. We'll be right back. Ian Ashbury, ultimamente tornato alla ribalta insieme ai suoi Cult con un nuovo album, ma non significa affatto che i suoi vecchi dischi vengano automaticamente dimenticati, chi l'ha detto? Ma era di Jimi Hendrix che vi volevo parlare, non di Ian Ashbury. Oggi Jimi Hendrix è considerato una sorta di dio del rock da tutti o quasi gli appassionati, ma un tempo non era esattamente così. Jimmy era una persona in perenne ricerca, tanto che dopo aver iniziato come session man per diversi grandi artisti del soul come Bobby Womack, decise di abbandonare gli Stati Uniti per andare a cercare fortuna a Londra, in Inghilterra. E cominciò a frequentare la scena beat, quella psichedelica che caratterizzava la swingante capitale britannica. Una cosa che non andò per niente giù agli attivisti di colore, che iniziarono a chiamarlo Coconut, noce di cocco, perché per loro era nero fuori ma bianco dentro. Ma a lui andava bene così. Pete Townshend disse che a Londra Jimmy viveva in una specie di manicomio, una situazione divertentissima ma estremamente differente da quello che succedeva a casa sua negli Stati Uniti. Secondo il chitarrista degli Who, Jimi Hendrix non è che si sentisse totalmente a proprio agio. Era sempre alla ricerca di se stesso, con la stessa caparbietà con cui gli hippie dicevano che un giorno avrebbero trovato la loro, magari andando in viaggio in India. Con il successo, Hendrix trovò quella cosa che stava cercando da tanti anni. Ma allo stesso tempo, e per la stessa ragione, molto di quello che aveva cercato di evitare gli piombò addosso. Jimi Hendrix, con una delle sue più belle ballads, questa mattina all'Early Bird Special, The Wind Cries Mary. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Rock FM. in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. He spoke of his movie and how he was making a new soundtrack. And then we spoke of kids on the coast and different types of organic soap and the way suicides don't leave notes. Then we spoke of the rain. Who is given to pills and small racing cars. He had given them up since his last crack up had carried him too far. Then we spoke of movies and bursts and the way an actress held her purse and the way life at times could get worse. Then we spoke of the rain. Always back to chills. But she calmed down after some wine, which is what happens most of the time. Then we sat and both spoke in rhymes till we spoke of the rain. Oh, it's always back to the rain. I was talking to Ed, who'd been reported dead by it was funny that I had no money to spend on him. So we both shared a piece of sweet cheese and sang of our lives and our dreams and how things can come apart at the seams. And we talked of the rain. Always back to the rain. She's a wild child. Eh già, e anche questo venerdì finalmente si conclude. È stato un fine settimana particolare perché ieri ad esempio era festa, domani sarà festa. Chi è che è rimasto all'ascolto della Hollywood Special? Nessuno, sono qui da solo. Mi asciugo le lacrimucce, so che sono in buonissima compagnia perché fra pochissimi istanti ci sarà Freak Anthony e DJ Ari e il compagno Burro Rock and Roll. Per il momento è tutto, io vi aspetto la settimana prossima, da lunedì, dalle 6 alle 7. Questo è l'Early Bird Special, io sono Chuck Bird che vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con i rimanenti programmi da Rock FM. Buon fine settimana, aloha!